Ed eccoci al cinema Visionari il giovedì dalle 14 alle 15, sempre un po' in anticipo, ma la scaletta è così ricca che come fare a penalizzarla. Allora, tutte le informazioni della scaletta di oggi le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari. E idem per quanto riguarda la pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in streaming in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Sulla scaletta di quest'oggi trovate gli ospiti della puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 26 febbraio, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, e poi il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2015. Eccoci con la nostra prima ospite di quest'oggi. Pronto, ci sei? Sì, eccomi. Eccoci. Anna Maria Gallone, co-regista del documentario Lei è mio marito. Anna Maria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Un titolo che era molto intrigante, di cosa si parla, Anna Maria? Allora, si parla di un passaggio, di un itinerario, di un cambiamento di sesso, ma non solo, di una storia d'amore. E direi che questo tema, che è abbastanza trattato, molto attuale, quello del transgender, in questo film ha un taglio particolare, perché oltre alla storia di questo famosissimo avvocato veneto che a 52 anni ha avuto il coraggio di fare un outing dopo tutta una vita d'attesa nelle catacombe, come dice lei, oltre a questa storia c'è anche la storia con la sua compagna, che l'ha conosciuta come uomo e che le è rimasta accanto dolorosamente, con difficoltà e però con molta fedeltà come donna. Come sei venuta a conoscenza di questa storia e come poi hai deciso di filmarla? Dunque, me l'ha segnalata Gloria Aura Bortolini, che ha partecipato in parte al film e che l'aveva conosciuta nello studio di suo padre, e ci siamo incontrati. Io sono rimasta folgorata da questa signora altissima, elegantissima, fascinosa, con una personalità straordinaria. Abbiamo parlato tutta la notte e abbiamo deciso di raccontare la storia del suo auto, e l'ho seguita per 3 anni fino al completo cambiamento di sesso a San Francisco. Oh, 3 anni, volevo chiederti anche su cosa hai deciso di porre l'accento in questo lavoro. Ecco, invece di soffermarmi sulla parte fisica della trasformazione, che c'è tuttavia nel film, ho voluto evitare qualsiasi sfumatura morbosa. Mi interessava molto l'anima della protagonista, anzi delle protagoniste, ed è questa soprattutto che ho seguito. Oltretutto devo dire che Alessandra si sa raccontare con molto humor, è una fabulatrice fantastica, e abbiamo vissuto insieme tanti momenti incredibili, dai seni fino appunto all'operazione finale, al matrimonio, primo matrimonio in Italia celebrato tra due donne, e per questo Alessandra ha mantenuto all'anagrafe il nome maschile, perché questo matrimonio potesse essere celebrato. Tanti momenti emozionanti, San Francisco devo dire molto pesante, però affrontati con grande coraggio dalla protagonista, che è veramente incredibile. E poi mi ha dato modo anche di conoscere il chirurgo che l'ha operata, la Bowie, che la più famosa chirurga di questo tipo di interventi, che era uomo anche lei con 3 figli, e poi è diventata donna e ora opera questo tipo di interventi chirurgici. Senti, le difficoltà le conosciamo un po' tutti e tutte, tra l'altro di questi documentari già ci siamo occupati, ce ne sono anche diversi, stati diversi nel tempo. Volevo chiederti quali sono le maggiori soddisfazioni, i traguardi che ha raggiunto in questo suo percorso. Allora, io credo che lei abbia avuto un percorso molto diverso dal solito, perché nella maggioranza dei casi le persone che hanno vissuto questo cambiamento hanno pagato anche proprio materialmente. Molte donne, molti uomini e donne hanno dovuto prostituirsi per trovare i soldi per l'intervento e così via. Lei non aveva questo tipo di difficoltà, perché sta molto bene, un avvocato affermato. Sono altre, innanzitutto una famiglia dell'alta borghesia che ha vissuto, unico figlio maschio con tre sorelle femmine, quindi la difficoltà dolorosa di far accettare questa cosa dai familiari, e poi anche il coraggio di affrontare quelli che sono i clienti, perché non è facile presentarsi un giorno, come ha fatto lei in tribunale, con in gonna e parrucca bionda, quando tutti la conoscevano come uomo. Devo dire che è talmente brava e ha saputo talmente spiegare la passione, la necessità di questo suo cambiamento, che su centinaia di clienti ne ha perso uno solo, un decisamente ignorante. Senti, il documentario era stato presentato alla scorsa edizione del Bifest, volevo sapere che percorso poi ha fatto e se ci sarà una qualche forma di distribuzione o passaggio televisivo. Tocchi un punto molto doloroso, perché ha fatto diversi festival, ha fatto il BIF, poi è stato a Bologna, è stato a Roma, adesso sarà prossimamente a Milano, è stato già una volta a Milano nei festival. Il festival è sempre una buona accoglienza, anche se devo dire molto spesso ho notato che fanno più presa le storie penose, strappalacrime, che non la storia di un personaggio brillante che ha affrontato in modo quasi come dire coraggioso, ma anche con molta ironia, tutto questo passaggio. No, la cosa che mi dispiace di più è che per ora è stato venduto solo in Danimarca. E in Italia è sempre più difficile. Io ho lavorato per tanti anni con la Rai, che ho prodotto tanti miei documentari, però ora ho trovato difficoltà e ci terrei tantissimo che si vedesse in una distribuzione possibile. Allora, a questo punto ci puoi lasciare dei riferimenti internet per saperne di più e magari contattarvi? Certo, allora c'è il mio indirizzo internet è facilissimo, annamaria.gallone@gmail.com, e poi c'è un sito, due siti, Anna Maria Gallone su Facebook, uno proprio dedicato a lei e mio marito, che ne racconta un po' tutte le tappe. A Roma Vladimir Lussuria l'ha lodato tantissimo, si è commossa tantissimo, e così tante altre persone. Io spero veramente di poter avere una distribuzione, non solo per motivi economici che mi ripaghino un po' di tutto il lavoro, ma proprio perché penso che porti un messaggio importante e che possa incoraggiare chi affronta questo cammino così difficile. Benissimo, Anna Maria, è stato un piacere, speriamo a presto. Davvero, grazie Federico, arrivederci a tutti. Ciao. Anna Maria Gallone, co-regista del documentario Lei è mio marito. Ti ho mai toccato con un dito finora io? Anche con tutta la mano, e hai sempre preso un sacco di schiaffoni. Oh sì, davvero. Suzanne diceva sempre che non sei nessuno in America se non vai in TV. Perché a che serve combinare qualcosa se poi nessuno ti guarda? E quando il pubblico ti guarda, diventi una persona migliore. Così se tutti stanno in TV tutto il tempo, tutti diventano persone migliori. Ma se tutti stanno in TV tutto il tempo, non ci resta nessuno che ti guarda. È qui che io mi confondo. Filippo, allora noi andremo a cena tutti insieme. Tu che fai, vieni? Solo se l'alternativa è caccia. Sbrigamose che mamma sarà a pensiero. Ehi tu, ma perché ti fai crescere la barba? Perché sono un blouson noir contro tutti e tutto per un mondo migliore, senza vincolo alcuno. E il blouson noir dov'è? Me l'hanno fregato. Beh, come vedi, vivo in una topaia. Potrebbe esserlo, se gli dessi una sistemata. Bene, eccoci con Sergio Panariello, regista del documentario Fuori Campo, che sarà in programmazione al Cineclub de Tour qui a Roma domani 27 febbraio. Sergio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie di avermi invitato. Beh, il tema era molto molto importante, interessante. Di cosa si parla, Sergio? Si parla di Rom, ma stavolta cercando di cambiare il punto di vista, nel senso che quello che noi siamo abituati a vedere sono la nostra immagine dei Rom e quella dei Rom che vivono nei campi, e associamo spesso l'idea, la parola Rom, la parola nomade. In realtà questa è una nostra finta convinzione, e quindi le storie che vado a raccontare sono le storie di quattro persone che vivono al di fuori dei campi, vivono nelle case. Questo attraversando un po' l'Italia, in quattro città, sono Cosenza, Bolzano, Rovigo e Firenze. Ecco, come ti sei mosso per avere questi contatti e poi per filmarli? Tutto è partito da un'idea di Francesca Saudino dell'associazione Osservazione. E loro hanno fatto proprio un progetto di ricerca già da diversi anni sullo spreco dei soldi dei campi, e quindi questo progetto si chiama Segregare Costa. Quindi all'interno di questa cosa sono venuti a parlarmi, è stata una scoperta anche per me questa visione, diciamo. Quindi sono andato in giro con loro a conoscere nelle varie città, le città che abbiamo visto sono state anche più di queste quattro, e le persone che ho incontrato, i rom che mi hanno aperto le porte della loro casa, sono stati tantissimi. Poi ho scelto queste storie rispetto pure a come li volevo raccontare, quindi senza il metodo dell'intervista, seguendo le loro storie. Alla fine si parla della straordinarietà della normalità, si potrebbe dire, in queste attraverso queste persone. E quindi per poterle raccontare così, seguendo la loro vita, era anche proprio l'empatia che ho trovato io e che ho cercato poi di con loro, e che ho cercato di trasmettere senza cercare di andare a ricercare l'emotività, sì, forzata, o appunto una storia che richiedesse, ma volendo raccontare proprio la normalità. Certo, trovare un'empatia su quei personaggi per poter abbattere questo muro di pregiudizio che abbiamo avanti quando vediamo una persona, e quindi provare a fare questo cambio di prospettiva. Proprio per questo poi anche il titolo Fuori Campo è questo, e sia il gioco su appunto il fatto che parliamo di storie che vengono al di fuori dei campi, sia proprio questo cambio di visione, non vedere quello che solitamente non è in campo, quindi usando, diciamo, il gioco della metafora cinematografica. Mm-hmm. Ecco, volevo chiederti rispetto ai rom stanziali, ci sono dei comuni denominatori? Ma in realtà praticamente sono la cosa particolare è che non è il nomadismo un tratto caratterizzante per definire chi è rom. A parte poi abbiamo sia quelli appunto dei rom che vengono dalla Macedonia, che vivono già loro nelle case, nei loro paesi, e quindi si sono ritrovati qui poi a vivere nei campi perché scappavano magari dalla guerra, ed erano situazioni di emergenza in cui dovevano essere delle situazioni semplicemente di emergenza e di passaggio, per poi arrivare ad avere, insomma, un'assistenza che li portasse a entrare in delle case. O abbiamo situazioni come quella di Cosenza, dove addirittura i rom sono lì presenti da oltre 500 anni, quindi per questo mi sembra difficile parlare di nomadismo, e anche lì la situazione è uguale. Quindi un po' riuscire, ma in realtà noi abbiamo questa visione, mi piace fare questo esempio che poi mi ha fatto Antonio Ardolino, che è uno dell'associazione, raccontandomi le sue storie. Lui segue comunque le vite dei rom anche nei campi, e lui mi diceva, per esempio, in metropolitana mi è capitato, se vedi il bambino rom che ti chiede l'elemosina, tu subito lo individui come rom. Magari a fianco a te nella metropolitana ci sono altri tre rom che stanno andando a lavorare e tu non li riconosci. Quindi per questo c'è questa forte percezione di quello che noi riusciamo a praticamente identificare subito come diverso, noi lo riusciamo a identificare con quel tratto culturale, mentre invece non è un assoluto. Senti, e prospettive, sogni che hai trovato in questi quattro viaggi che hai fatto? In ognuno ho trovato la ricerca, quello che poi alla fine viene raccontato. Vabbè, loro in particolare sono ci sono per esempio Sead e Luigi, che sono due dei protagonisti. Sead tra l'altro viveva a Napoli, io pure sono napoletano, e a Napoli viveva in un campo. Lui ha fatto proprio, diciamo, che il suo sogno si è realizzato. Lui veniva dal Kosovo, e praticamente arrivato in Italia si è ritrovato a vivere in un campo a Napoli. Per poter uscire dal campo, lui con le sue forze ha preso la sua famiglia, vedendo che non c'erano prospettive per l'uscita dai campi qua a Napoli, è andato a Rovigo, dove ha trovato un lavoro in fabbrica, adesso ha 5 figli e sta pagando il mutuo della casa, e un po' per tutti quanti loro e questo è il loro sogno, è quello, è anche il nostro, insomma, quello poi alla fine di raggiungere una stabilità che gli permetta di vivere una vita tranquilla, serena. O c'è per esempio Luigi, quella della realtà di Cosenza, che abitava in nel momento in cui l'ho seguito abitava in un complesso di case popolari, che però era un caso strano, perché sono state assegnate, è stato fatto un mando apposta solamente per i Rom, per questa assegnazione di case popolari, quindi già sembrerebbe una soluzione migliore, ma in realtà comunque si è ricreato un campo in muratura, cioè la dinamica era uguale, erano un complesso di case un po' al di fuori della città dove vivevano solo i Rom, quindi andare a creare un ghetto invece che in un campo, in un complesso di case, quindi problematiche, cambiando la struttura, problematiche identiche a quelle che sono di un campo. E lui nel periodo in cui l'ho seguito nel film, lui ha cambiato casa, ha cercato un'altra casa dove andare a vivere al di fuori di questo ghetto, proprio, diciamoci la verità, anche perché appunto poi in questi contesti, quando uno spesso dice vabbè ma i Rom delinquono, uno non c'è del buonismo nel voler mostrare queste storie al di fuori, nel senso che io credo che poi in questo tipo di realtà si va ad aumentare quello che poi è sono situazioni in cui la delinquenza, in cui appunto il malessere sociale crea comunque aumenta, no? Queste è l'humus perfetto per far proliferare questo tipo di realtà, sì, e quindi sì. Chi non vuole cerca per forza di scappare, di uscire da queste situazioni, c'è chi ce la fa, c'è chi invece si abitua a tutto quello che è attorno. Purtroppo abbiamo anche questo tipo di risultato, per esempio ci sono persone che sono nate Rom, che ormai da generazioni sono nate nei campi, e loro non vedono la via di uscita dal campo, ma vedono questo. Infatti poi il mio sogno è che questa cosa sia vista, ma il mio sogno come insieme quello, perché è stato poi un percorso che abbiamo fatto insieme anche con i protagonisti, cioè io non li ho spiati nelle loro vite, ma loro mi hanno accompagnato nelle loro vite per poter raccontare queste storie. Il nostro sogno è quello di arrivare anche ad altri Rom, sì, quelli che hanno ancora questa, che magari quelli di nuove generazioni che adesso hanno questa percezione di non uscita, di difficile uscita dal campo. Mm-hmm. Sergio, volevo chiederti domani la proiezione al Detour a Roma, sì. Intanto se ci sarai, e poi se il film come sta viaggiando, se ci saranno altre forme distributive. Per adesso stiamo facendo una distribuzione in modo indipendente, c'è chi ce lo può richiedere, c'è il sito di osservazione che è appunto www.osservazione.org, dove c'è la mail di Fuoricampo, il trailer, un po' di informazioni, e lì si può scrivere per richiedere di proiettare il film nella propria città. E adesso ci sarà come prossimo appuntamento il 6 marzo a Napoli, all'interno della rassegna Astradoc, che viene fatta al Cinema Astra, e poi ci saranno anche Milano, Cosenza stesso, cioè più o meno tra marzo e aprile ci sono una serie di date che abbiamo organizzato indipendentemente, e sono appunto, si possono seguire poi sul sito, sulla pagina di Facebook di Fuoricampo. Benissimo, Sergio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Un abbraccio, grazie ancora. Ciao. Ciao. Sergio Panariello, regista del documentario Fuori Campo, qui a Roma domani, venerdì 27 febbraio, al Cineclub de Tour. Come vedi, abbiamo abolito la cattedra come centro di attenzione e di potere. Ora ogni posto è uguale all'altro, professore, il tuo come il nostro. Tu sei il docente e noi gli studenti, ed è proprio per questo che tu sei al nostro servizio, ovvero al servizio della società che noi rappresentiamo. Noi vogliamo scegliere e discutere insieme a te gli argomenti che tratteremo. Noi vogliamo la gestione dell'università. Non se ne frega niente della cogestione con il potere accademico. L'università a chi la usa? Al potere studentesco. Quel giorno, grazie a Fiore, scoprii che si poteva contestare un professore, un uomo per me potentissimo e prepotentissimo, e dimostrare che la verità poteva essere un'altra. E scoprì anche che in nome della verità bisogna essere disposti a rischiare le palle. Posso sbudellarti una snob caca sotto in un minuto, signora Laracchia? Oh, questa è la banda di delinquenti che ho sempre sognato per mio nipote. Salve, questa è una famiglia cattolica? Possa via. Ah, un'altra cosetta. Se io parlo con te e tu mi dici che sono Finocchio, io t'ammazzo, ci siamo intesi? Vogliamo definire Finocchio? Perché certe inclinazioni possono... Io Finocchio, tu morto, intesi? Intesi. È semplice, d'accordo? Tu sei bravo, dottor. Ma che ci tenete qua dentro? Lo scheletro, famoso scheletro nell'armadio, per fare l'anatomia. Ha ragione, Corinaldesi. No, guardi, per quanto ne so io, l'alunno Corinaldesi non ha mai ragione. Se lei ci porta via l'armadio, noi facciamo sciopero bianco. Famo il sit-in. Ha capito che te ci potremmo pure da fuoco a scuola. Bene, eccoci con Michele Ricchetti. Ci sei, Michele? Ciao Federico. Co-regista del documentario Semitoni, il film sulla scena musicale indipendente italiana che è in prima visione, una prima visione di febbraio di Distribuzioni dal Basso. Michele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa e parliamo subito del tema che hai scelto per questo lavoro. Sì, Semitoni è un viaggio fra le pieghe appunto della musica indipendente italiana. Abbiamo intervistato tre band italiane in tre città diverse: Trani, che è una cittadina del sud, Bologna e Milano, e abbiamo un po' fatto emergere quelle che possono essere differenze tra quel sistema di fare musica, il sistema delle major, ma anche i contesti sociali diversi, quindi un sistema diverso di vita, non omologato, completamente indipendente, appunto libero. Semitoni appunto e oltre a queste interviste ci sono, c'è un montaggio parallelo delle città, dei loro live, di tutti quei contesti che possono essere vicini alle band o che entrano in contrapposizione. Come avete scelto proprio queste tre band? Sì, in primis i generi sono molto diversi tra loro, quindi abbiamo il crowd rock ad esempio nella fase orchestra con il sonoro di film negli anni 60-70 italiani di protesta, quindi Petri, Rosi, anche Tretti, un autore anarchico veronese, e poi gli Sclensiness che è di Bologna, che appunto fa questo non ti preoccupare, tranquillissimo. E quindi c'è i Sclensiness e gli Wilson Hills. Tutte e tre le band hanno molta esperienza all'estero, questo era uno dei punti principali, per cui anche capire rispetto all'Italia come vedevano il sistema musicale all'estero e quali potessero essere le discrepanze appunto tra le due tra i vari contesti. Anche questo un po' emerge soprattutto forse dal punto di vista sociale che musicale, perché poi si parla tanto dei luoghi che hanno visitato e il comportamento anche in altri contesti, non solo quello musicale. È un'indagine a 360 gradi rispetto alla vita di queste figure, molto libere, ripeto. Questo è l'aspetto principale che volevamo mostrare, questa libertà di fondo che c'è nei loro atteggiamenti e nel modo di essere. Ti stiamo un po' perdendo, la voce si sente un po' disturbata, magari trova una collocazione migliore. Volevo chiederti, ecco, il panorama musicale è molto cambiato, la crisi del supporto e la diffusione della rete, dell'utilizzo della rete, e anche molto importante è l'attività dal vivo. Ecco, è così anche per lo scenario indipendente? Sì, assolutamente, forse è anche un punto di forza, nel senso che se prima c'era un'industria che tutto sommato gestiva dall'alto la distribuzione dei dischi, dei CD. Oggi è soprattutto il live che consente alla musica di sopravvivere, è un punto a favore ma anche a sfavore, nel senso che poi c'è il pubblico ha una forma di decisione maggiore rispetto a quello che può essere appunto il successo o meno di una band, e quindi le band sono praticamente quasi sempre in tour. In maniera alcuni suonano in altre band, alcuni membri delle band suonano in altre band, quindi sono quasi 365 giorni all'anno in tour costante proprio per sopravvivere, oppure ad esempio in altri casi devono fare un doppio lavoro, ma questo magari sì, è già più consueto per band emergenti o indipendenti, dipende, perché alcune sono più giovani all'interno del documentario, altre invece hanno più esperienza. Sono cambiate molto anche le dinamiche rispetto al rapporto con i locali o i luoghi adibiti alla musica, e com'è per loro? Sì, assolutamente, i rapporti sono più diretti, ecco. Forse questo già c'era in precedenza nell'ambito musicale. In realtà poi Semitoni va anche oltre l'ambito musicale, nel senso che vuole indagare il rapporto che ci può essere con le diverse arti in una forma di autoproduzione, autogestione. Anche il documentario stesso è distribuito da Distribuzione dal Basso, che è in che è in Creative Commons, quindi certo, dove gli autori sono padroni del proprio lavoro, ma anche della parte autoriale, appunto. Senti, riescono anche a formalizzare questa propria autonomia, indipendenza, anche con creando una rete di band che si muovono in questo senso? Assolutamente sì, le band si conoscono molto bene tra di loro, i circuiti sono piuttosto ramificati, e in alcuni casi non solo in Italia, nel senso che si finisce per avere collegamenti in tutto il mondo. Questo emerge dalle band, anche una band più piccola che sono gli Wilson Hicks di Trani è riuscita ad essere passata dalla BBC Radio o via dicendo, a fare concerti un po' in tutto il mondo, ad avere dei fan in Giappone, ecco, ad esempio, che questo può essere molto particolare come cosa, e, appunto, perché lo scenario indipendente va molto oltre quelle logiche di mercato che poi sì, magari sì, possono sì, svilire un contesto artistico piuttosto che enfatizzarlo, quindi un mercimonio totale dell'opera artistica, ecco, intendo questo. Oh, Michele, volevo chiederti a questo punto, ribadiamo il fatto che sarà è la prima visione di febbraio di Distribuzioni dal Basso, quindi si può vedere lì, e poi i vostri riferimenti per saperne di più e anche contattarvi. Sì, il documentario attualmente è sul sito di Distribuzione dal Basso e può essere richiesto sul sito, su quella piattaforma. Poi c'è una pagina Facebook, YouTube, potete tranquillamente scrivere a Distribuzione dal Basso e loro vi potrete accordare sia delle proiezioni che richiedere il file o il DVD. Benissimo. Michele, io t'abbraccio, è stato un piacere e ci risentiamo presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Tu lo sai come la penso sugli Spinelli, vero? Ma come fai ad essere così certa di quello che dici parlando di qualcosa che non hai mai provato? Va bene, fammi provare. È chiaro, non mi ascolti perché non parlo con cognizione di causa, ma per sentito dire, quindi facciamo insieme questa esperienza, così poi forse non dirò più cazzate. Ora prendi un respiro profondo e poi trattieni tutto il fumo nei polmoni fino a che non ti senti scoppiare. Tieni, sentilo tu. Niente male, sei in gamba. Noi viviamo in una giungla, capisci? Io vivo nella giungla, tu vivi nella giungla, c'è sempre qualche piccola difficoltà in agguato, come ad esempio un enorme tempio azteco pieno di misteri e di trabocchetti e di stregoni aztechi da tutte le parti, oppure che ne so, magari ti volti e vedi un serpente che se ne sta seduto a guardarti, o un rinoceronte o una tigre della Malesia, è sempre pieno di... perché, capito com'è, no, è tutto... La vita è una giungla, e questo è il segreto della vita. Sì, è proprio vero, mamma. Sei molto profonda quando sei fatta. Siamo con Andrea Segre per parlare di un lavoro di cui avevamo già parlato con lui, che però sarà in programmazione oggi e anche in altri giorni alla Casa del Cinema qui a Roma. Andrea, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno a voi. Stiamo parlando di Magari le cose cambiano per quanto riguarda oggi la giornata del 28 e del 1 marzo. Chiaramente per chi non ha sentito quella puntata, ripetiamo l'argomento, Andrea, di Magari le cose cambiano. Sì, allora proiettiamo questa sera Magari le cose cambiano dentro ad una rassegna che la Casa del Cinema ha dedicato a vari lavori di Zalab, come una delle nuove officine di cinema che la Casa del Cinema sta imparando a conoscere e facendo conoscere agli spettatori. E, Magari le cose cambiano è un documentario che ho fatto nel 2009 a Ponte di Nona, una delle cosiddette nuove centralità dello sviluppo urbano romano. È in realtà un quartiere molto periferico, abbandonato in qualche modo a circa 10 km oltre il GRA. È una zona dove non è per nulla facile vivere e dove ho incontrato all'epoca due donne, Neda e Sara, che costituiscono il centro poi del racconto di quel quartiere e della memoria storica dello sviluppo urbano della città. Com'era partito tutto? Era partito dalla mia curiosità di capire come mai in alcune zone della città si viva così male e come mai lo sviluppo urbano di questa città abbia schiacciato la qualità della vita. Me ne ero accorto diventando padre in questa città, andando in giro con il passeggino di mia figlia, e capivo quanto era difficile muoversi a Roma e quanto fosse complesso riuscire a garantire la qualità della vita che un bambino, prima di tutto una bambina nel mio caso, ha bisogno per poter crescere. E da lì in poi ho voluto capire di più, e quando sono incontrato Ponte di Nona ho capito che lì si poteva capire di più. Senti, sono passati alcuni anni dal 2009 al 2015, rivedendolo oggi trovi dei tratti di continuità e differenze? Come sono passati 30 anni da quando, prima di vivere a Ponte di Nona, Neda viveva in centro a Monti e poi piano piano si è dovuta spostare verso fuori. Purtroppo gli anni passano, ma la direzione con cui questo sviluppo disorganizzato, questa marmellata con cui si è sviluppata la città, continua a segnare molte delle difficoltà del vivere in questa città. Gli ultimi sviluppi delle tensioni nelle borgate di periferia degli ultimi anni dimostrano che gli errori commessi in anni di non progettazione urbanistica o di progettazione falsata dall'eccessivo peso degli interessi privati ha causato poi nelle vite delle persone. Nonostante queste forzature urbanistiche, c'è la possibilità, si crea comunque una comunità in questi luoghi? Sì, dentro a queste forzature poi per fortuna esistono belle persone come Nele e Sara che resistono a queste difficoltà e che pongono una contraddizione forte tra la voglia di vivere e la fatica di vivere. Il mio lavoro credo sia quello proprio di andare a cercare, con il linguaggio del cinema documentario, quelle vite che restituiscono la forza dell'esistenza e del vivere dentro alle tensioni dell'oggi. Senti Andrea, e per quanto riguarda la triplice programmazione alla Casa del Cinema, ci sarà anche la tua presenza? questa sera sì, sarò presente anch'io insieme al direttore della Casa del Cinema, Giorgio Rosetti, dovrebbe arrivare anche Neda, la protagonista del film, e poi ci saranno anche altri soci e collaboratori di Zalab che insieme a me aiuteranno a capire che cosa Zalab ha fatto e sta facendo nel panorama del cinema documentario italiano. Quindi gli estremi per la programmazione si trovano sia sul sito internet della Casa del Cinema che su Zalab. Certamente su zalab.org si trova tutto, e comunque l'appuntamento per questa sera alle 6 alla Casa del Cinema. Quindi alle 18 alla Casa del Cinema qui a Roma. Andrea, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Ciao ciao. Andrea Segre, regista del documentario Magari le cose cambiano, alla Casa del Cinema qui a Roma il 26, 28 febbraio e 1 marzo. Ma che sei, diventati matti? Ah, ce stavamo giocando. Andate a giocare col secondino. E qui se può giocare, l'altro mio fratello per giocare ne ha strozzato uno. Bertucci, smettetela, che lo dica vostra madre. No, io lo dico che no. Loro solo dalla madre ci hanno paura. Ora tu hai detto la tua, ma non è il tuo network, è il mio network. E nessuno mi dice come mandare avanti il mio network. Ti ho creata io. Cammini quando ti dico di camminare, corri quando ti dico di correre e vendi quello che io ti dico di vendere. Non venderò la mia anima. Mi sembra il cassiere della banca di Dali. E conti, conti, ma che conti? Hai male, questi soldi, spendili, divertiti. La vita è breve, ci può morire da un momento all'altro. Fa come faccio io. Ed eccoci con Ivan Gergolet, regista del documentario Dancing with Maria, in uscita in sala oggi giovedì 26 febbraio. Ivan, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Allora, intanto complimenti, ho visto questo lavoro che è stato presentato a Roma. Raccontaci un po' la nascita, come è nata l'idea e poi come l'avete sviluppata. Beh, allora innanzitutto Dancing with Maria è un film documentario su una danzatrice argentina di 93 anni che si chiama Maria Fuchs, che è ancora attiva nel suo studio a Buenos Aires. Io in realtà l'ho conosciuta quasi per caso, nel senso che molto semplicemente mia moglie è una sua allieva. E l'ho seguita nel 2010 a Buenos Aires, per dove lei andava a fare un seminario con Maria Fuchs, e sempre su richiesta di mia moglie mi portai dietro la telecamera per farle un'intervista, e diciamo che poi così è nata l'idea del film, che insomma ci ho messo quasi 4 anni a terminarlo, però ecco, con dei risultati che hanno reso poi tutti noi veramente felici. Senti Ivan, una danzatrice completamente autodidatta pratica la danza molto istintivamente e che però con grandi risultati, e i suoi corsi sono affollatissimi. Beh, allora diciamo che è vero che Maria Fuchs ha un percorso da autodidatta, anche se poi ha studiato con una delle più grandi maestre della danza contemporanea, che è l'americana Martha Graham. Allora c'è un retroterra, insomma. Beh, sì, naturalmente. Comunque Maria da giovane ha studiato danza classica, poi comunque ha cominciato a ricercare un suo percorso personale. In questo percorso ha incontrato anche Martha Graham. Poi in realtà ha continuato a ricercare un suo stile personale, una sua tecnica personale, che l'ha portata a svilupparne una che porta il suo nome, che è il metodo Maria Fuchs, che ormai insomma in questo momento si insegna, oltre che in Argentina, in molti paesi del mondo, fra cui anche l'Italia. E il suo studio è affollato ormai dalla fine degli anni 50 in poi, visto che poi Maria, questa è la sua grande peculiarità, ha cominciato a includere nei suoi gruppi di danza non solo professionisti, danzatori e danzatrici professionisti, ma anche persone con limitazioni anche molto gravi, ciechi, sordi, persone con disabilità fisiche e mentali, in un periodo in cui queste persone si nascondevano, sicuramente nell'Argentina della fine degli anni 50, ma non tanto per insegnare a loro la danza, ma per imparare da loro come anche con e grazie a limiti molto forti si possa creare qualcosa col proprio corpo. Senti, come mai questa diffusione, questo successo? Quali sono gli elementi qualificanti di questa disciplina che lei insegna? Ma sicuramente in questo la personalità di Maria Fuchs è fondamentale, nel senso che lei comunque è un artista che ha questo grande dono di riuscire a connettersi, a entrare in empatia totale con le persone che la circondano, con i suoi allievi, indipendentemente dalla loro, diciamo, condizione sociale sicuramente, ma anche fisica. E dopodiché c'è una certa universalità, mi verrebbe dire, nei suoi insegnamenti, nel senso che comunque per Maria il movimento può nascere anche dalle cose più semplici, come può essere un'ombra, una forma geometrica, il battito del cuore, il nostro respiro, che sono i ritmi fondamentali che li possediamo tutti noi, anche se siamo sordi. Senti, all'origine di tutto c'è un episodio doloroso: la sua famiglia fu cacciata dopo un pogrom della Russia zarista. Sì, Maria è figlia di immigrati ebrei russi che arrivarono in Argentina durante il pogrom russo. Maria è nata in Argentina, è la primogenita di 12 fratelli e sorelle, ed è cresciuta, ecco, però in un ambiente culturale che era quello di Buenos Aires degli anni 40, molto vivo, molto variegato. Lei comunque già da giovanissima faceva parte delle avanguardie artistiche dell'Argentina, e in questo senso ha incarnato un po' tutto il Novecento culturale argentino, opposizione alla dittatura militare compresa, ecco. Oh, Ivan, per quanto riguarda la distribuzione, come vi siete mossi? Ma allora, noi quando siamo stati selezionati alla settimana della critica di Venezia siamo arrivati senza distributore, e poi da Venezia in poi abbiamo cominciato a collaborare con Exit Media, che sono i nostri attuali distributori in Italia, e devo dire abbiamo creato una grande sinergia naturalmente con loro, ma anche con tutte le scuole, tutte le allieve di Maria Fuchs che sono in Italia, che si sono dimostrate attivissime nel proporre il film nelle loro città, con un movimento dal basso, devo dire, che ci ha molto sorpreso, nel senso che in ogni città in cui si trovava un'allieva di Maria Fuchs, questa andava dal suo esercente di fiducia a chiedere in continuazione se avesse preso il film, quando arriva il film, facendo anche grosse pressioni. E così, insomma, siamo riusciti a fare un'uscita da oggi in una quindicina di città. In un'altra quindicina di città il film arriverà dalla prossima settimana, dal 4 marzo, e ieri per, insomma, festeggiare questo risultato che non era assolutamente scontato, sempre le allieve di Maria Fuchs hanno organizzato dei flash mob di danza in 10 città, dal sud al nord, da Trieste, dove abito io, fino a Messina, passando per Milano, passando per Firenze, passando per Napoli, passando per Ragusa, passando per Torino. Quindi ecco, si è creata una comunità, c'è un popolo che si sta muovendo attorno al film, ed è una cosa che ci ha sorpreso tanto e ci riempie di gioia, nel senso che è una cosa che poi va oltre al film stesso, no? Senti, sì, certo, avete anche un vostro luogo internet? Sì, allora, noi abbiamo la nostra pagina su Facebook, che è Dancing with Maria, che naturalmente vi invito a visitarla, e abbiamo il nostro sito internet dancingwithmaria.it, che è sempre aggiornato con i calendari delle proiezioni e delle novità. Okay. Allora, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, grazie mille. Ciao. Ciao. Ivan Gergolet, regista del documentario Dancing with Maria, in uscita in sala oggi giovedì 26 febbraio. Un gruppo di figli di puttana ubriachi ingaggiati dal cartello della droga di quel posto si presenta nella mia stanza d'albergo e minaccia di farmi a pezzettini. E io gli dico: sentite, hombres. Ok. Sono in minoranza. Siete 4 contro 1 e mi farete fuori, qui, stasera, e nessuno in questo mondo offuscato si accorgerà della mia scomparsa. Ma a uno di voi caverò un occhio. Punto. Silenzio. Lo ripeto per me. A uno di voi poveri deficienti sottopagati strapperò l'occhio dall'orbita. Lo prometto. È un'inezia, forse, considerato tutto, ma vi assicuro che ci riuscirò. Perché è l'unica cosa che mi rimane da fare in questo mondo. Ben ritrovato Enzo Bevar di Cinemovel per parlare della rassegna Miseria Ladra, che sta avendo luogo, è in pieno svolgimento a Casal Nuovo, Portici e Ottaviano. È cominciata il 24 e termina oggi. Enzo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie di nuovo, sempre un piacere. Eh sì, era un piacere e un interesse anche di parlare di questa rassegna. Di cosa si tratta? Cos'è Miseria Ladra? Guarda, la rassegna che stiamo facendo nasce sempre dal progetto che poi, come ogni anno, riusciamo a raccontare anche attraverso la tua trasmissione, ovvero Libero Cinema e Libera Terra, che è una carovana di cinema itinerante contro le mafie che realizziamo ogni anno assieme a Libera. Da un anno circa Libera ha lanciato una nuova campagna che si chiama Miseria Ladra, sostenuta da Libera e dal gruppo Abele, e ci è sembrato naturale risperimentare, diciamo, il modello del cinema a sostegno delle iniziative di Libera, dando il nostro piccolo contributo attraverso l'immagine audiovisiva. Abbiamo deciso di partire dalla campagna perché il coordinamento di Libera in Campania e la Fondazione Polis hanno deciso di testarlo immediatamente, quindi questi 3 giorni, diciamo, sono un piccolo esperimento per dare anche un po' di continuità alle attività estive durante l'inverno e per sostenere la campagna di Libera, che ha una missione molto chiara e molto forte. Chiaramente tutti possono andarsi a informare maggiormente sul sito internet, che è miserialadra.it. Il concetto è molto banale da un certo punto di vista, in Italia forse può sembrare complesso, però non si può oggi pensare di contrastare le mafie e la criminalità organizzata senza sostenere la dignità e i diritti, e quindi cercando di sconfiggere prima di ogni altra cosa la povertà, le nuove povertà. Oggi in Italia, tra povertà relativa e povertà assoluta, ci sono circa 16 milioni di persone coinvolte. Il nostro paese è formato da 60 milioni, quindi il bacino da cui le mafie possono attingere quotidianamente è smisurato, è dilagante. Nel nostro piccolo, come Fondazione Cinemover, cerchiamo di dare un po' di visibilità, dare anzi la massima visibilità che riusciamo a quei film, a quelle opere che negli anni, ieri ad esempio abbiamo proiettato Sulla città di Francesco Rosi, che ha fatto molto strano al pubblico pensare che sia un film di 50 anni fa, perché sembra raccontare la storia di Napoli di una Napoli molto più contemporanea di quello che può sembrare. Stasera avremo il piacere di avere Antonietta De Lillo qui a Ottaviano, al Palazzo Medicio, che un tempo era di Cutolo e che oggi fortunatamente è tornato di proprietà della società civile, e proietteremo Let's Go, un film che racconta appunto come poveri possiamo diventarlo tutti, come poveri lo siamo forse tutti in una misura diversa, e come insieme, il motto di Miseria Ladra è aiutiamoci a uscire dalla crisi, facciamolo insieme. Questo è un po' il principio anche delle nostre proiezioni. Il cinema non si guarda mai un film da soli, quindi questo è forse un po' il legame che abbiamo anche con la campagna di Miseria Ladra. Oh, ecco, intanto volevo chiederti quali sono i titoli che state presentando in questi 3 luoghi. Guarda, il 24 abbiamo proiettato Gli Equilibristi di Ivano Di Matteo, un film con Valerio Mastandrea che sicuramente il pubblico ha molto apprezzato, proprio per la capacità di raccontare un tema così difficile come quello delle povertà e dell'ingresso nel mondo delle povertà in maniera equilibrata e assolutamente emotivamente parlando avvincente. Ieri, come ti dicevo, abbiamo fatto questo omaggio a Francesco Rosi su indicazione del nostro presidente onorario, che è Ettore Scola. Stamattina con le scuole di Ottaviano abbiamo proiettato Uomini Soli, un film di Paolo Santolini e Attilio Bolzoni, che apparentemente non ha nulla a che vedere con il tema delle povertà, ma che sicuramente, partendo dalla storia di quattro persone che hanno perso la vita per contrastare le criminalità organizzate, ci racconta come, restando da soli e restando in un isolamento appunto spesso dato anche dalle istituzioni e dalle realtà e dalla società civile, si perde quasi sempre. Stasera, come invece ti dicevo, avremo anche il piacere di ospitare Antonietta, che verrà a presentare il suo ultimo film, Let's Go, e quindi sarà una bellissima occasione per raccontare appunto una delle tante storie che riguardano il nostro paese e la nostra contemporaneità. In questi vostri incontri con i più giovani, in queste aree di difficoltà, aree geografiche di difficoltà, emergono degli spunti, delle spinte per un'uscita, come dicevi tu, collettiva alla crisi? Ti dico, noi poi come Fondazione Cinemola, ad esempio, siamo anche impegnati nelle scuole in un progetto a Rimini quest'anno. Può sembrare strano, ma parlare con i ragazzi di Rimini e con i ragazzi di Ottaviano non è poi tanto diverso, perché ormai l'iPhone in tasca ce l'hanno tutti, le tecnologie e la capacità di guardare al presente spesso è simile, la speranza è uguale, spesso i problemi e gli ostacoli però per arrivare ad accedere alla partecipazione sembrano apparentemente molto più alti di quello che sono. Il cinema ha un po' questa capacità di avvicinare tutto davanti agli occhi e renderlo un po' più facile anche a chi è davanti, quindi a volte ci sono film come quello di stamattina che sono un po' uno schiaffo in faccia, perché Uomini Soli racconta la storia di alcune persone che apparentemente hanno perso la vita, ma la speranza e la capacità di guardare oltre nei ragazzi è forse la vera potenza, che c'è l'ultima potenza e l'ultima risorsa che ci è rimasta come paese Italia. Quindi sì, se devo darti una risposta, la possibilità di riguardare attraverso loro a delle speranze c'è, cioè, sia qui, sia a Ottaviano, che a Casalnuovo, che a Rimini, che in tutta Italia. Bene, per saperne di più ci lasci gli estremi internet di Cinemovel? Guarda, il nostro sito è www.cinemovel.tv. Per approfondire la campagna di Miseria Ladra vi consiglio di dare un'occhiata al sito internet, che è www.miserialadra.it. I coordinamenti locali di Libera, cittadini e regionali sono lì comunque sempre aperti per accogliere appunto chiunque voglia sostenere questa campagna e voglia partecipare in prima persona. Bene, Enzo, un abbraccio e alla prossima. Anche a te un abbraccio, a presto, ciao, ciao. Federico. Enzo Bevar di Cinemovel per parlare della rassegna Miseria Ladra, Casalnuovo, Portici e Ottaviano, dal 24 ad oggi, giovedì 26 febbraio. Sono due gli addetti all'esecuzione e ognuno di loro premerà un pulsante? Sì, ed ognuno di quei pulsanti è collegato ad un computer che miscela i circuiti in modo che nessuno sappia chi è stato realmente. E io dove vado? Senza soldi, senza documenti, senza nessuno. Chi c'ho io? Che mi rimane a me? Ma come, dove vai? Sei libero, hai la libertà, sei libero. Libero da cosa? Libero da cosa? Che voi almeno avete una famiglia dove andare. Io chi c'ho? Chi cazzo c'ho io? Piano, Ciccio. E che? Carino, dai. E almeno in galera c'era qualcuno che mi voleva bene. Allora torna in galera. Se vuoi ti ci portiamo noi, ci metto una buona parola. Anch'io. Chi è figlio di latifondista, medico, notaio, avvocato, impiegato, farmacista, tenente dei carabinieri? Sedetevi nei banchi di destra. Chi è figlio di operaio, contadino? Sedetevi a sinistra, su. Vi risparmierò la tribolata storia di come, per circostanze del tutto fortuite e impreviste, sono diventato gelataio e poco a poco completamente votato al mio mestiere. Io sono un uomo di pace. Potrei Chi lo sa, essere un criminale, un proscritto, in permanente ribellione contro una legge sociale cieca e aberrante. In contatto, in collegamento telefonico con Felice Farina, regista del film Patria, che è in uscita in sala oggi, giovedì 26 febbraio. Felice, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Tutto bene? Sì, mi sentite? Ti sentiamo, ti sentiamo. Ok. Allora, ho avuto modo di vedere il film nell'anteprima stampa. Per chi ci ascolta, lo raccontiamo per sommi capi? Sì. La storia parte da questo protagonista interpretato da Francesco Pannofino, che è un operaio siciliano un po' grezzo, analfabeta, così dai modi rudi, che una mattina in cui lo lascia la donna e si rompe la macchina, arriva in fabbrica e trova un'assemblea dove il proprietario ha comunicato che chiude perché delocalizza, insomma perde la testa, sale in cima da solo, sale in cima ad una torre alta 60 metri, poi lo raggiunge il suo posto in qualche modo, un rappresentante sindacale che è Roberto Citran, un uomo posato e di sinistra, insomma questi due si trovano in cima alla torre a fare un'occupazione di 24 ore, verranno raggiunti nella notte da poi un terzo personaggio che è Carlo Giuseppe Gabardini, che interpreta un guardiano, diciamo, della fabbrica, un'assunzione obbligatoria perché è un portatore di disabilità, un autistico, che poi è quello che come dire nel film rappresenta la memoria, perché il film poi si occupa di raccontare nella memoria dei nostri tre personaggi e con l'aiuto di schegge di repertorio che si intersecano, diciamo, con il film, con l'azione recitata, i 30 anni, gli ultimi 30 anni, 35 della nostra storia, a partire dall'omicidio Moro nel 79, seguendo un po' la traccia del libro di De Aglio, Patria, a cui il film è ispirato in qualche modo. Ecco, proprio a proposito del libro, che tipo di lavoro hai fatto per la resa cinematografica rispetto alle pagine? Ma, guarda, il pretendere di fare un film così esaustivo su un libro di 900 pagine, come 30 anni, insomma, di una vita del paese intensissima, piena di contraddizioni, interessantissima da un certo punto di vista, molto drammatica, insomma determinata proprio da una catena di rapporti di causa ed effetto molto stretti l'uno con l'altro. Insomma, pretendere di farci un film di un'ora e mezzo è un po' una scommessa, una sfida irresponsabile. Infatti, insomma, per alcuni così dal gusto un po' difficile il film rimane così un po' superficiale, perché abbiamo dovuto, come dire, esercitare una sintesi molto forte. In realtà il film è volutamente superficiale, ha una scorza apparente di questa superficialità sotto cui c'è, come dire, un motore emotivo che è tutto questo accozzaglia volutamente confusa di memoria, della memoria dei nostri 30 anni, perché ho capito che insieme a Esmeralda Calabria, che poi ha fatto parte fondamentale del montaggio, l'unico modo per restituire una sensazione complessiva era lavorare il più possibile sulle emozioni pure, sì, in qualche modo. Sì. Oh, Felice, rimanendo su uno dei due piani su cui si svolge il film, quello della vertenza, il quadro che emerge è una estrema frammentarietà e isolamento di chi porta avanti le lotte. Allora, noi simbolicamente, così, in maniera anche un po' estrema, forse non del tutto simile a quello che accade nella realtà, questi tre nostri occupanti li abbiamo proprio lasciati soli come cani. Anche la polizia si presenta decisa per farli scendere, ma sparuta. Nella realtà, tra l'altro, avevamo durante la preparazione del film un episodio vero della questione, perché in via Cigni a Torino, a pochi qualche chilometro dal nostro set, c'erano gli edili arroccati in cima a una gru di 70 metri, sono stati lì 3 giorni. Insomma, questo essere lasciati soli è forse poco aderente alla realtà di quello che accade, ma molto simbolico. Insomma, anche quella è una scelta di sceneggiatura molto pensata, voglio dire, non messa lì a caso. Il film poi dà volutamente anche una traccia, un'indicazione di soluzione, quello è, come dire, un piccolo manifestino ideologico, perché che chiude il film, e poi alla fine loro, cioè, intanto è anche importante che nasce un rapporto umano anche profondo fra questi due, che sono apparentemente cane e gatto, Don Camillo e Peppone. Insomma, si danno continuamente del fascista e del comunista, secondo una solfa in qualche modo ormai superata, no? O che va riletta, reinterpretata in qualche modo. Però poi, appunto, il titolo di coda ci racconta che loro prendono in mano l'assemblea della fabbrica, convincono gli altri operai a investire in TSO, e quindi si gestiscono poi la fabbrica in cooperativa con un comitato di gestione, che è un'esperienza che in qualche rarissimo caso è successo nelle fabbriche inferiori ai 40-50 operai. È una mediazione sindacale possibile, però qui, appunto, l'abbiamo utilizzata per indicare forse, appunto, la strada del cooperativismo e dell'equità della gestione, com'è, no? Sì. Una strada possibile anche per tante, insomma, per molti problemi che abbiamo qui, insomma, nel mondo della produzione e del lavoro. Sì. Senti, passando invece all'altro, al secondo piano, quello della memoria e del materiale d'archivio, dicevi messo anche confusamente, però emergono chiaramente dei forti elementi che hanno contraddistinto l'Italia in questi decenni: da una parte la corruzione politica, dall'altra tutta la strategia mafiosa, e dall'altra le stragi neofasciste. Quindi sono questi tre pilastri grossi che hanno condizionato il presente. Sì, io ho lavorato su una scaletta di massima, o come dire, abbiamo diviso questi 30 anni in 4-5 grandi fasce, no? Grandi fasce di interesse, insomma, del racconto. E sono queste che hai detto, insomma, appunto, raccontate in maniera così. Il racconto che se ne fa poi nel film, mettendo insieme pezzi di schegge, di cose che ci portavamo nell'inconscio, Esmeralda, io, insomma, chi ha poi fatto la confezione di questo accrocco emotivo, questo motore di memoria che sta sotto al film. E, insomma, è una cosa, come dire, forse utile in qualche modo, perché dà soprattutto ai giovani, a chi non ne sa nulla di quello che è successo, perché abbiamo vissuto in una, insomma, cecità mediatica negli ultimi 20-25 anni, insomma, dovuta a tanti motivi, insomma, quello del regime e quello del frazionamento della comunicazione. E quindi, come dire, il film è anche uno strumento per interpretare questo lungo, intenso trentennio che ha seguito poi la fase del dopoguerra e della ricostruzione, che è stata tutta abbastanza monotona e monocolore. Insomma, ecco. Sì. Quello che succede dopo, quando col rapimento di Moro la DC comincia lentamente ma inesorabilmente ad avvitarsi fino a morire poi con lo scoppio di Tangentopoli, il passaggio tra la prima e la seconda repubblica, e, insomma, quello che se ne deduce con un po' di amarezza è che abbiamo buttato tante occasioni e che il nostro problema irrisolto è la questione morale, che è una cosa estremamente anche noiosa da dire, perché si fa sempre la figura dei bacchettoni, dei professori e dei giustizialisti. Berlinguer ormai è un'icona lontana che è venerata da molti con un po' di nostalgia, ma insomma nessuno si ricorda poi il silenzio a cui le sparate di Berlinguer sulla questione morale anche nei congressi del partito, insomma la risposta del silenzio. Era un uomo molto solo, io poi parlo da non berlingueriano, non lo sono mai stato, io sono affascinato dall'uomo, a quei tempi non ero nella FIGC, insomma non ero altrove politicamente. Ma appunto il problema rimane quello, non perché il nostro paese sia cioè abbiamo tanti altri paesi che sono anche più corrotti del nostro, il problema è la qualità della nostra corruzione, la qualità del nostro, della nostra questione morale, che ha un rapporto appunto con la persona, con il DNA della persona, che è veramente molto particolare. Questo poi anche molto dipende dalla nostra storia, dalla nostra condizione geopolitica, insomma va anche oltre, molto oltre il mio film e l'arco di tempo che prendiamo in esame. Sì. Però insomma, dimmi. No, è felice, no, volevo sapere da oggi nelle sale in quante copie è l'uscita? Ma una ventina di copie, siamo un po' in tutta Italia, insomma cerchiamo di essere nei capoluoghi, si tratta sempre di un film così indipendente, piccolo, insomma in cui si spera nel cosiddetto passaparola, insomma è un film che è filmicamente è sicuramente fatto con molta passione, anche un esperimento cinematografico sia per il linguaggio sia anche per come è girato, perché è fatto appunto metà dal vero, metà in green screen, perché questa location molto particolare che sta un po' appresso a quella scommessa di Hitchcock, che voleva fare un film intero film in una cabina telefonica. Qui siamo su 3 metri quadri a 60 metri altezza, quindi anche interessante filmicamente. Benissimo. E quindi insomma niente, spero che il pubblico vada a vederlo. A Roma siamo al Greenwich e al Quattro Fontane, a Milano al Mexico, poi varie altre città, insomma a Torino, a Firenze, a Bologna ed altre ancora. Felice, io ti ringrazio, un grazie abbraccio, e a risentirci alla prossima. Ciao. Felice Farina, regista del film Patria, in uscita in sala oggi giovedì 26 febbraio, e tentiamo un ultimo collegamento. Vi serve una TV o un videoregistratore o un personal computer? Qual è il primo nome per gli apparecchi di alta qualità e basso costo? Chiediamolo a questa bellissima signorina. Mi scusi, signorina. Oh, buongiorno. Buongiorno. Salve, cerco un apparecchio di bassa qualità e alto costo, per piacere. No, Shelley. Che è successo? Alta qualità, basso costo. Bene, ce l'abbiamo fatta per contattare Nevina Satta della Fondazione Sardegna Film Commission per parlare della 12ª edizione delle giornate europee del cinema e dell'audiovisivo a Cagliari da oggi al 28 febbraio. Nevina, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per averci pazientemente atteso e soprattutto invitato, siamo felicissimi per una volta di fare un collegamento dalla Sardegna. Come hai giustamente anticipato, le giornate europee dell'audiovisivo e del cinema si sono spostate a Cagliari dopo, come tu sai, una lunghissima e complessa militanza nelle aule torinesi e poi la trasferta ligure, quasi come dire seguendo, no, la eterogeneità delle proposte sul tema green, non potevamo che essere in Sardegna. Siamo molto contenti di lavorare a questa edizione insieme a FERT e agli amici del MIPACT. Allora, dicevi caratteristica green, spiegaci meglio. Il tema delle giornate quest'anno è quello della sostenibilità, non solo ecosostenibilità, ma sostenibilità nell'industria creativa. Ci è sembrato un tema, come direbbe Noemi Klein, non più rimandabile, nel senso che tutto da questo momento in poi cambia ed effettivamente l'urgenza che le emergenze climatiche hanno determinato, è un'urgenza che sta cambiando il nostro modo di pensare, non solo i contenuti audiovisivi e quindi per esempio l'inserimento delle pratiche virtuose di risparmio energetico, di controllo e gestione dell'inserimento delle energie rinnovabili, ma anche tutto il lavoro da fare nelle pratiche di produzione. Quindi da un lato inserire i temi di sostenibilità ambientale e capacità di efficientamento di ogni azione quotidiana del cittadino, delle scuole, delle pubbliche istituzioni e ovviamente degli imprenditori, ma anche farlo in una modalità sostenibile, quindi andando a sposare quelle esperienze che in molti paesi d'Europa sono già realtà. Pensiamo ai protocolli green adottati in Germania piuttosto che adesso in Olanda, e andando a recuperare una tradizione che l'Italia ha avviato già da qualche anno. Ricordiamo la collaborazione di Carlo Crestodina con Edison, che ha portato alla creazione del protocollo Edison, poi alle successive evoluzioni di diversi protocolli, dei quali qui incontriamo una parte delle esperienze in dialogo con altri protocolli europei. Direi qual è l'obiettivo di questa Tour de Force, maratone di fine febbraio in Sardegna. Da un lato vorremmo far scaturire non solo un impegno alla creazione di un protocollo europeo congiunto, dove crediamo che le Sea Commission abbiano un obbligo di raccordo istituzionale tra pubblico e privato e tra filiere diverse, ma anche la possibilità che questa, che ironicamente chiameremo la Carta di Cagliari, possa, come dire, costituire un punto fermo dal quale cominciare a costruire poi azioni progettuali condivise con i partner europei. Quindi esiste una fusione possibile e virtuosa tra economia e ecologia? Assolutamente, diciamo che i vantaggi non sono solo necessari rispetto alla tutela del patrimonio, cioè questo ha un altissimo valore economico. I territori per questo con le Sea Commission hanno l'obbligo di porsi il problema non tanto della manutenzione del patrimonio ambientale e immobiliare, ma anche del suo efficientamento, della autonomizzazione delle strutture che la pubblica amministrazione possiede e che non devono solo essere, come dire, lì in giacenza passiva, ma diventare per esempio possibili incubatori di capitalizzazione di risorsa energetica e quindi possibili investimenti sul prodotto audiovisivo. D'altro lato, come immaginate, sembrano tutte conversazioni che appartengono quasi più al super quark che al nostro mondo del cinema, in realtà a tutto il lavoro che si può fare di efficientamento significa anche creare un dialogo tra la filiera industriale dell'energia, che ha grandi capitali di investimento, e l'utilizzo per esempio della legge sul tax credit esterno. Non dimentichiamoci che queste aziende hanno spesso investito grandi capitali per prodotti audiovisivi di tipo pubblicitario e non hanno avuto un sistematico coinvolgimento su altre possibilità di presenza anche appunto dal punto di vista dell'investimento nei nostri prodotti filmici, che invece sappiamo garantiscono una visibilità e una tenuta fondamentale nell'immaginario. Non ultimo il fatto che la pubblica amministrazione debba esemplarmente creare una domanda che giustifichi la moltiplicazione dell'offerta in un mercato che oggi, dicevamo, deve essere sempre più un mercato di reti, dove i servizi e la possibilità di interagire tra soggetti diversi possono diventare valore aggiunto per tutte le filiere coinvolte. Benissimo, Nevina, in chiusura ci lasci i riferimenti internet per il programma di questa 3 giorni? Assolutamente, annunciandovi anche che sono di prossima pubblicazione i nuovi bandi del progetto Heroes 2020, scritto con la H, un omaggio a David Bowie, visto che siamo in radio, cioè sono questi eroi della sostenibilità. www.heroes2020.eu sono i riferimenti che potete trovare anche nel sito della Sea Commission Sardegna. Scriveteci, ci sono bandi in arrivo nei prossimi 4 mesi che saranno aperti a case di produzione provenienti da tutta Europa e rispetto ai quali i formati brevi di cortometraggi, serie web e documentari brevi saranno i principali oggetti messi in palio, tra virgolette, per chi ha una capacità anche di ricerca espressiva radicale. Io ti abbraccio, Nevina, alla prossima. Grazie, grazie ancora, buon lavoro a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Nevina Satta della Fondazione Sardegna Film Commission sulla 12ª edizione delle giornate europee del cinema e dell'audiovisivo a Cagliari da oggi fino al 28 febbraio. E con questo è tutto, l'appuntamento per visionari è giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15, trovate tutte le informazioni sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari e l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito c'è l'opzione Ascolta la diretta. È tutto, alla settimana prossima.